squadra agricola. Sì, cosa c'è? Tu gliel'hai dato con la Diego Gianni, tu gliel'hai venduto. Sì, sì, ce l'ho venduto io. Grazie, tira, cosa gli hai dato? Un agnello maschio o un agnello femmina? Beh, maschio era, maschio. Che mi bella nel tuo forno, non si sa mai. ma prima a Barra Agricola l'ha avuto prima di darla a me, quindi non c'è pericolo. Vediamo come si dice Natalino, Natalino. A Barra Agricola, dopo? Ferma, a buon prezzo lo dà. Allora, il negozio sono, mi sembra che siano, vanno bene 50 o 10 euro. Tu quanto lo dai? Io? A 9. Ah, bella roba, hai capito. Senti, negozio. Dal prodotto dal consumatore dovrebbe essere di meno, non ho capito, Barra Agricola, l'ho comprata a 7 io ieri, con le mie disegni, a 9. Sì, a 7 non l'avrà comprato. A 7 l'ho comprato ieri io. Confermo, confermo. Ieri va per l'altro mercato, dice, stavo andando, e ieri a 9,50. Ma non è bene, io l'ho comprato a 7 ieri, l'ho comprato. È bello anche, e l'ho anche già mangiato ieri. Perché oggi ci sarà la rimanenza sicuramente. Ma Giulio, quelli che c'ha a Barra Agricola c'hanno quattro gambe e una coda, mi. Ah, ecco, per quello, eh. Lui è un pochino, un po' stiliato, è vero, Barra Agricola? Sì. Sapete dove è Fordongiano? Cosa hai detto, Fordongiano? Scusi, hai detto? No, Codrongiano, se Fordongiano. Ho ripetuto anch'io Fordongiano, con la F, come senso, insomma. Dov'è? I capelli hai, dov'è? Ah, tanto di capello, ma io lo sapevo, senso da bene, a dove, da che parte? Alla passi di Nuaro, a mai da un poco, ma scusate, un parigiano. Stava scoperta da qualcosa, tanto lo sapevo anch'io che in Sardegna, ma in a Cagliari è! Vicino a Cagliari, ok, va bene. Uno ha detto a Nuvola, a Cattale, l'altro cosa dice? Io non dico niente, ma non lo so. Tu hai generalizzato per quello, lui dice, da qualche parte sarà in Sardegna. Allora, ero nominato, da qualche parte sarà. No, perché deve andare Marco in gita, forse vuole sapere per questo. Guarda, computer, sai, non è. Prova, guarda, scriva, computer. E te lo rintracci. Andare la barracuda, dove è Porto Gianus? Ti giuro che mi trovi disinformato. No, non ho più pari idea, l'ho già sentito, però non so una dritta come sia, ho capito, non è lui, insomma, ecco, va bene. E ci sono tanti paesi che noi non abbiamo mai sentito, eppure ci sono esistenti già. Se mi date 10 euro ve lo dico io dopo. No, niente 10 euro, io dici il foto. Ma si lo foto però. 10 euro se non niente. No, lo sconto ci devi fare, io non vedo pantalone, te ne diamo. Aspetta, non dire che. Lo sto chiedendo al mio computer, dove. Ora, prendi la 131, arrivi a Basanta. A Basanta tu se vuoi entrare entri dentro la trasmissione a Basanta, se no continui più avanti e a un certo punto c'è lo svincolo che va per la 131B che va per Nuoro. La 131B che va per Nuoro da Basanta. A un certo punto vedi Fordongiano su e vai da Fordongiano Busacchi, capito la strada che porta per Busacchi. Fai 20 km chilometri, 19-20 chilometri, da lì dalla 131 bis e si è a Portorgiano. E ci sono le esterne. Ah, ecco, allora ho capito. Comunque, buongiorno Gigi Vulcano, ben sentito. Grazie, lui. Buongiorno a tutti. Ciao, Luigi. Se c'è chi lo fate da loro, io non so niente. No, no, sei tu che devi svoltare i dollari, non noi. Ah, così è. Sì, già mi sei incrociato stamattina. Fatti pagare, Gigi, fatti pagare. Cappa, dai, rimango in ascolto, comunque buongiorno a tutti, che la cosa è un po' tripola per me qua. Lui a te ti conviene comprare un po' di buono di bocchetti e durante la notte prendi che li muti davanti alla casata, quello lì. Così almeno non avrai problemi tu. Comunque non so cosa c'entra il Portorgiano, ci sono le terme, c'è un bel posto, ci sono le terme, però non mi piace come posto, come zona. Non ti piace? Vabbè. Ma se portano i bambini e vedete qualcosina che li attrae un po', ci sarà sicuramente. Sarà proprio quello che stai dicendo tu. Ci sono le terme, ma anche portano bene le cose, qualche altra cosa. Va bene. Ah, a te, la sei così da migliorato, di comprare un po' di blocchetti. E andare a mudare, la sabbia di quel questo che se mi trovo vicino a casa, così almeno la una rubrica può mudare, non fa fastidio a me ultimo. Oh signori, vi saluto che vado a girare i piedi d'agnello. Ciao Gigi, alle prossime. Ciao Sandri, buongiorno a tutti. Sandro, ma anche tu stai preparando l'agnello al forno? No, Antone, io ho i piedi e la coda e Ah, piedi e coda, ambiente allora. Allora tu sei a casa di doppio room che ha fatto fare e cucina bene. Sicuramente così mi chiami. Kappa, non ho detto, potevi dirmelo prima Antonio, volentieri, ma ne ho preso, cioè devo solo a mezzo, perché l'altra metà me la mangio tra l'altro giorno. Non ti preoccupare, dai, lo sai che per gli ospiti non devi stare lì a preparare poi così tanto, tu ti mangi il tuo piattino di pasta e noi l'assaggiamo, dai, un piccolo assaggino. Già lo so, non siamo così tanto mangioni, non è un problema. Ma il fatto che non mi preoccupo più, mi preoccupo col bambino perché me ne manca poco. Guarda che gli ospiti si accontentano anche di provino di Davide, diciamo già. Paga, no, oggi è domenica, per carità di niente. Oggi è ravioli, ti piace Antonio il ravioli? Gli ho fatto il sugo con la salsiccia, fatto da me, e con i ravioli con qui. Ho voglia che va bene, la devo buttare. Allora, mi sa che vengo io e Dollaro e dai, col bambagnino iniziamo a mangiare, d'accordo? Verso mezzogiorno e mezzo, bene fa. Ehi, a mettetevi in fila però, che passi il pasta. Oggi non lo so qua, ma a questa sera qui è in tira aria di pasta al forno, che tra l'altro a me non mi piace molto, ma comunque già mangio lo stesso, perché io mangio tutto, però naturalmente ci sono delle cose che preferisco e altre che preferisco meno, indubbiamente. Sì, la mia non mi piacciono più della pasta al forno, poi le tagliatelle, quella pasta corta, le farfalle, ad esempio, quello mi piacciono molto. E poi, gli spaghetti, il numero 5 però, non quelli sottili, quello proprio grosso. Insomma, diciamo che mangio tutto lo cacciato. A me la pasta al forno mi piace, sono già un po' che non la faccio, mi ha dato una buona idea. La prossima domenica la faccio, va. Mi devo voltare perché la besciamella la devo fare io. Ehi, qua, deve stare lì a preparare la pasta al forno. Andiamo da Giulio. Tu porti la carne e Giulio offre intanto non mi ritengo a casa, vedi? Sto scherzando. Oggi no, era una bella passeggiata, però nessuno ci va, nessuno ci è andato, niente ne sapete. Non lo so. Cosa ti stavo dicendo, tu stai scherzando, no, una volta siamo andati a una rustita, siamo andati a una rustita e abbiamo trovato il padrone di casa che era di quei secchi allucinanti. Abbiamo fatto la divisione per comprare la carne, tutto quanto, ci hanno inserito anche la carta Scottex, la carta igienica e l'acqua. Ma come non è possibile? Era fatto lì per il gabinetto anche. Ma l'invito a quello tu lo è davvero, no? L'invito è loro per loro fanno la casa, però tutti dovranno mettere un tanto a testa per comprare la carne, le solite cose, la verdura, la carne, la roba da bere. Beh, ci hanno fatto pagare anche loro, hanno fatto la spesa, poi noi gli abbiamo dato i soldi in base a quello che... E ce l'ha segnato anche tanta Scottex, carta igienica e poi che cos'era l'altra cosa, non me lo ricordo, ah, è l'acqua. A cosa siamo? Bobo, non è possibile. Vabbè, evidentemente non aveva molto quella persona lì. Vabbè, dai. Dai, che cambio di corso, devo attaccare la batteria che la stavo caricando. Questo non mi piace, non è lo che c'è l'eco, ma ce lo sto con questo, aspetta, e così l'eco è certo lì. No, adesso non c'è, adesso è tutta un'altra minestra, tanto siamo in tema di magna. No, adesso va bene. Ok, ma è forte rimane la radio o è per il meno sud questa? Fortissima giù. Ma già bella, già va bene, è abbastanza amplificata, voglia, va benissimo. Ah, ho capito, allora, no, ma ho girato il trimmer dentro, ho girato, vabbè, allora facciamo così, lasciamo così, no, l'altro microfono devo, ho messo la batteria a caricare, si mangia tanto di quelle batterie, l'MB più 4 si mangia tanto di quelle batterie che non finisce mai, no? Oh, a meno che è la batteria che non serve, ma l'ho comprata nuova, quando è, 2 settimane fa, di quelle ricaricabili, ma mi sa che non serve perché l'ho comprata da Brickman, ha tutti i materiali di scadenza questo Brickman. Guarda, io nemmeno nell'MB 5 ogni anno la cambio, un anno mi dura tranquillamente, lo sai che io lo uso poco. Comunque ti dico una cosa, in quella seminata che ti stavo dicendo famosa, il tipo, il padrone di casa, ha avuto la brillante idea di prendere un paio di bistecche e mettersene nel frigorifero, glielo fate subito stanare, visto che era così secco, gli ho detto, scusa, ma la carne ce la mangiamo anche un tetto, lui la fuori. Ah, però l'ho mangiata tutta, no, l'ho fatto un altro perché pensavo che non ce la facevate a mangiare. Non è possibile, ci sono certe persone a fare, ci sono, sono quelli che conservano soldi, io già, con le guai di Tirica, non siamo tutti uguali, nella vita non siamo tutti uguali, va bene, rompo le facce a tutta questa gente, no, già è meglio essere generosi, già lo credo, così almeno, per vari motivi, intanto per una questione di educazione, perché se mi invita a casa poi mi tratta in una certa maniera, così penso che non va bene, e poi il solo fatto che tu nascondi la carne sia solo un meschino e basta, no? Niente di più, va bene così. Andrea, tu come li tratti gli ospiti? Gli ospiti? Niente, arrivano a casa, trovano tutto pronto, li fai accomodare, non li fai mancare niente, serviti e riveriti, alla fine un bel caffè, un digestivo, e poi il resto dei piatti li faccio io, giustamente, e cerchiamo di preparare qualcosa di buono. Io dico la verità, quando sono scritto a casa poco, tutto quello che ho, la verità, tutto quello che ho, tolgo fuori. Allora io adesso sono dovrei andare, un po' da casa tua e un po' a casa d'Antonello, dunque, così almeno mi trovo bene, non ho problemi. Va bene, poi ti presentiamo il conto a fine mese, vero? già la vado in piazza. No, ho sentito l'urlo della moglie, quando ha detto che lavorava sempre in piatti, ho sentito un urlo, che dove si è andato col mattarello a picchiarlo perché non è vero? Per colpo di mattarello! Non è possibile! Oh, yeah. Va bene, dai! Un colpo di un colpo in meno, un'altra settimana la voglia sempre bene! L'altro amore, l'amore! Scusate, Nato, faccio un attimo di bianco, arrivo subito! Appaga! Ok, oh, yeah, yeah. Aspetta già che voglio provare il microfono normale, le cose, come si chiama, c'è stato la pui con quel lingaretto, voglio provare il microfono normale, aspetta un attimino. Fai tutte le prove che vuoi, poi si prepara, mia moglie adesso esco, perché voglio fare un giro, però a prepararsi che non sai come sono le donne. Ciao Gianni, buongiorno. Oh, signor Salvatore, sei qui. Buongiorno anche a lei. Ciao carissimo, ben sentito, buona domenica. Ti stavo ascoltando, come sto sistemando un computer che tra poco devono venirsi a prendere. Allora, mi stavo facendo tenere compagnia dalla vostra chiacchiera. Vi ascolto. Come va, tutto bene? Sapere se hai calcolato molte cazzate, io ho detto. Assolutamente, quel che hai detto bene, tutto bene. No, ho seguito molto il ragionamento perché stavo cercando di capire com'è che non andasse in una cosa che avevo sistemato. Quindi mi faceva semplicemente piacere sentire la vostra voce, guarda, ti dirò. Ma ti abbiamo fatto compagnia, di questo ne sono contento, che ti abbiamo, meno male non ti sei addormentato. Ciao Sabato. Buona ditta, ciao, ben sentito. Come va, tutto bene? Tutto bene. No, stavo cercando un invito a pranzo oggi, ma adesso non me ne vuole dare. Non è che tu sei disponibile, no? Certo, lo giuro. Come no? Ma sai che tu porti tutto quanto per 3 persone più 3, 4, e è tutto a posto. Stavamo scherzando, Gustavo, sto scherzando anche adesso con te. Stavo dicendo, sto provando il microfono normale con il lineare che mi satura quando uso il microfono amplificato. Volevo sapere se anche con questo microfono satura lo stesso. Vai Gianni. Ehi, aggiungo, ti satura uguale. Ma non c'è, si può fare una regolatura dall'interno, non c'è nulla per regolare come il ZG che ha le molle. Confermo, saturo da morire. Mi allontano, vi ascolto, buon proseguimento. Ciao signori. Ciao Salvatore, dai, buona domenica, buona giornata e buon pranzo quando lo farai. Scappa, avanti Antone. Яндексе набрав Сиби в Туле и будет ссылочка на наш. Aspetta, Sabato, che ti volevo chiedere una cosa, un attimino. Vi ascolto, però siccome sto facendo un'operazione a momenti devono passare a ritirarsi un computer e non ho ancora ultimato, quindi vi ascolto, dimmi pure, se è una cosa veloce, dai, sento, dimmi. Sì, velocissimo era, volevo sapere se hai ricevuto da Cagliari, solo quello, se me lo puoi dire. Sì, aspettate, ce l'ho, adesso sto aspettando il nominativo da Roma, oramai è passato più di un mese, quindi dovrebbe, penso, arrivare a giorni. Ah, ok, ho capito, vabbè, tutto lì. Ok, attenti pure, vai a fare il lavoro, non ti voglio trattenere, Sabato, ci mancherebbe altro, abbiamo modo di sentirci in altro momento, dai. Avanti Gianni. Vabbè dai, io riprendo, vi saluto perché devo andare a prepararmi, se no mia moglie mi dice sono pronta io e tu non sei pronta ancora. Chi ha ragione, dai. Sto a darmi una lavata e poi me ne esco in girella, dai. Antonello, se mi stai ascoltando saluto anche a te. E saluto tutti gli altri amici, Giulio e tutti gli altri che ci sono in ruota, Salvatore, TQRX, eccetera eccetera, vi auguro una buona domenica, magari ci sentiamo dopo pranzo perché io vi attacco, poi vediamo un po' cosa si può fare, dai. sentiamo, ma non è possibile. Ok, già, no, adesso, sì, va bene, stavo dicendo, adesso l'ho staccato il linearetto, così non satura comunque, il microfono a mano della CTE questo è, quello che ha la rotellina di fianco che si regola, infatti se lo faccio sentire, vedi? Adesso l'ho abbassato, adesso l'ho aumentato, così di nuovo, com'è c'è questo microfono? Poi ti lascio andare, vai già. È un microfono normale, non sento molta comunicazione. È normale, normale. Ma la rotellina perché cosa serve? Per aumentare la radio? Sì, serve per aumentare la radio, però non c'è batteria, Questo qui non è alimentato, non è, capito, non è un microfono amplificato, assolutamente. È un microfono normalissimo della CTE, che l'ho adattato appunto qua. Va bene, già, ci sentiamo, le prossime, dai. Tornando al discorso ridurre la potenza dell'apparecchio, sì, ma io non lo voglio toccare, capito? Lo lascio così e non me ne frega niente. Il lineare può rimanere anche da parte e lo uso senza, non lo manometto l'apparato, capito? Solo per fare spazio al lineare, non me ne frega più di tanto. Va bene, già, ci sentiamo, ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao, Gino. No, io dicevo regolare il lineare dall'interno, ho capito, il lineare con la palatta. Mi capisci cosa ti voglio dire? Ci sono delle regolazioni, ci sono all'interno del lineare e te lo allinea con la palatta. Questo non lo so già se si può fare, se non l'ho mai aperto, all'in fuori l'altro giorno, cioè non ho mai guardato dentro attentamente a queste cose e poi non lo toccherei nemmeno, no, non mi interessa più di tanto, era solo una così, una prova e basta, niente di più, poi non è che mi interessa più di tanto, quando mi sentono mi va sempre bene, poi quindi, se non c'è arrivo lontano va bene, se non c'è arrivo va bene lo stesso per me, figurati, non me ne frega più di tanto. Già, va bene così. Esatto, provalo con la palatta, magari si accoppia a me. Ma gli altri, sai cos'è? Questo qui mi interessa perché c'è l'FM, c'è la banda laterale, insomma questo è il più bello di tutti, è il più grande, dunque è questo che mi interessa usare, non gli altri, capito? Grazie, ci sentiamo. Ok, ciao, ci sentiamo, ciao, ciao. Avanti fischietto. Buonasera. Buonasera, avanti. Buongiorno, perché ancora non siamo di sera. Non siamo di sera, ma ci manca poco. Si dice che la sera inizia da mezzogiorno in poi, praticamente meno di mezz'ora ancora, perché sono le 11:33 minuti qui nel mio orologio che ho sul comò qua. Dunque, fra meno di mezz'ora dovremmo incominciare a dire buonasera, vero tu? Allora ti ha mai riconosciuto già. Capita, la voce tua è inconfondibile, come faccio a non riconoscerti? Dovrei stare assente dalla frequenza forse qualche annetto per poi non riconoscere la tua voce, perché allora in quel caso io me la potrei anche dimenticare, ma... sentendoci così anche a distanza di 1, 2, 3 mesi va sempre bene, la memoria rimane, capito? No, la voce non cambia mai, può essere anche anni, ma la voce non cambia mai di una persona, è sempre chiusa la finestra. La voce quando si è adulti difficilmente cambia, però uno se la può dimenticare all'orecchio, no? Così se io rimango per dire non so qualche anno senza magari accendere l'apparecchio mi potrei dimenticare anche le modulazioni di tante persone, magari di tante altre me le potrei anche ricordare come è già successo. Alle volte hai sentito delle persone per anni e ti è rimasto talmente impresso nella mente, nell'orecchio, capita che non te lo dimentichi così facilmente, però altre volte magari, un po' perché ha potuto cambiare apparecchio, un po' perché sei stato anni senza sentirlo e allora te lo puoi anche dimenticare, capito tu? Gappa. E così succede. Tutto bene Giulio? Sì, a tu, tutto bene, mi sono alzato nemmeno mezz'ora fa, mi sono alzato, una doccia e via, e mi sono appena vestito, pensa che ancora non sono sceso giù al piano di sotto, perché ho fatto dalla vasca agli indumenti. Mi sono vestito, insomma, adesso poi sono entrato qua, ho acceso e ci ha messo, c'è qualcuno. E ho sentito un po' di persone ed ecco, mi sono attaccato all'apparecchio e ancora non sono sceso nemmeno giù alla piano di sotto, pensa un po'. Scappa. E io invece mi sono alzato alle 5 e poi dopo mi sono tornato a coricare alle 7. Alle 5 e alle 2, cosa ti è successo? Stavo pensando, quando me l'hai detto, ho detto ma forse è andato a pescare. Invece no, mi stai dicendo che ti sei ricoricato alle 7, come vai alle 5? Perché sono fatto così? Io... più di tanto non dormo, poi anche perché ho sentito un rumore, ho sentito di gente che è arrivata qua sotto, me ne sono alzato, mi ho pescato. È così che sono andato subito a controllare dove si era. Ah, ecco, insomma, hai sentito dei rumori morirti e ti ha svegliato, ecco, ho capito, sì, beh allora in quel caso lì sì, è giusto controllare, perché non si sa mai. Alle 5 del mattino è ancora buio, dunque hai fatto bene a controllare. Che caffa. No, ma io mi alzo spesso la notte, alle 3, alle 4, tutte le ore. C'è proprio un mio coso, No, non dormo tanto, io ho il sonno molto leggero. Ogni tanto mi voglio andare a controllare. Anche perché io dormo sempre con la finestra aperta, non amo dormire con le finestre chiuse, mamma mia. Ah, ho capito. Cazzettina, insomma, alzarsi a tutte le ore è anche un po' fastidioso, ma se tu sei abituato così, a me mi darebbe fastidio, sinceramente. No, io mi alzo solamente una volta, la notte, per andare a urinare, basta, niente di più, ma poi dormo tutta la notte, no. Anzi, devo dirti che dormo abbastanza in maniera profonda, non sento niente, se c'è qualche rumore o se piove forte, se c'è temporale, raramente sento, guarda, ma proprio raramente. No, in quanto a quello, grazie a Dio, riesco a dormire abbastanza, dai. Io dormo proprio con la finestra aperta, dormo con la serranda aperta, perché se dormo con la finestra aperta c'è freddo. D'estate sì che dormo così. Con la bollibile aperta, io devo vedere la luce di fuori, se non vedo la luce di fuori non sto bene, mi hai capito, non sono io. Io devo essere tutto un modo particolare, ho capito tu. Sì. No, un po' di luce già piace anche a me, la verità, infatti io abbasso, apro le palette della persiana, che ho le persiane che si aprono le palette, no, e dunque la luce già passa, e la mattina quando incomincia a diventare luce già entra nella stanza la luce. Grazie, io qua tutto sotto controllo, cioè. E la notte non mi ci sono forse giocare a palla, erano imbriati, ma adesso sono usciti verdi già. Cazzo, lei ha arrivata un'ampulla. Allora, una doppietta, non vedrai. E quindi una pisticola dai culi, con l'ardo, ma dai. A fargli le nate che belle, belle e rosse. Confidami, se abbiamo avuto questa guai, hai visto lì. Guarda, no, se me la prendi in mano, se la prendi in mano, perché davvero, io non scherzo. Non so come ha fatto una capone, già sai. Che zitia. E se mi stiamo andando a pallone sotto casa tua alle ore assurde. Papà, ma già ti sono usciti i mezzi già. La voce a Mattesi è rompendo le palle. Però quello lì è successo nell'altro... come si chiama? Nell'altro palazzo, sono partito una sedia ampulli, cazzo, ha preso i di corrente. Ma è pure con dei miei viene la leva o più da miei acuri? Nell'altro palazzo è successo questo. Ah, ho capito, sì. Non è possibile. No, qui no, dove abito io già è tranquilla la zona, solo che tanto tempo fa c'era una cagna in calore, no? un cane che c'era qui nel vicinato, e c'era una mandria di cani che facevano sosta davanti alla porta di questi a tutte le ore del giorno e della notte per almeno una settimana, ma incominciavano a abbaiare durante la notte e davano fastidio, davano molto fastidio, perché abbaiava uno e abbaiavano tutti, passava un gatto e subito abbaiava, insomma, così via. E allora però dopo sono spariti, perché la cagna che della persona che abita vicino qua non era più in calore, allora i cani se ne sono andati, capito? Tu sai che i cani hanno un fiuto straordinario e sentono quando c'è una femmina che in quei giorni appunto manda odori, no? Allora loro si piantano lì davanti all'ingresso del dove c'è il cane, appunto dove c'è il cane, la cagna che è in calore, e stazionano anche per una settimana fin quando non gli passa il calore, capito? Pure il gatto è così, fa le stesse cose. Ne ho due qua, ma uno è sterilizzato, l'altro no. E ogni tanto sarà un paio di miagura. Lo so. No, i gatti di solito si azzuffano anche la notte, no? Quando si trovano, magari vogliono conquistare il terreno dell'altro, e allora si azzuffano. Quelli sì, lo so, ma quelli non è che fanno poi tanto rumore come il cane, però ci sono certi cani, ragazzi, con quel boccione che hanno, abbaiano in una maniera impressionante, ma carità. Ce n'era uno, ragazzi, che era alto quanto un asino, era alto, quando apriva la bocca, mamma mia, ha detto un trombone. Sono fastidiosi che c'è il cane di vecchio, che c'è minorete, che c'è tipo chihuahua, mamma mia. Quelli sono più prepotenti, quei cani lì sono più prepotenti. Quelli quando li incontri per strada, se non si attaccano, si attaccano anche alla gamba del pantalone, si attaccano. Quelli sono prepotenti, sono micro cani, però sono molto, ma molto prepotenti. Buongiorno, questa è una scena, era 2 ore questo cagnone, era un pitbull, era 2 ore con quelle di yo-yo, ho visto dentro il tranquillo, cazzo, se ne presa che c'è un cane, non per gli appare i denti, questa domanda non ammazza se non lo il padrone. E io glielo credo, e poi il pitbull è un cane molto, ma molto forte. Io ho sentito che una stretta di un pitbull è roba di 500-600 kg, una stretta, un morso che può dare, di quanto siano, pari a un peso di 500-600 kg, non so se sia vero, ma così mi hanno raccontato, non lo so. Quale è peggio? Beh, sicuramente. Sono cani micidiali quelli, quelli quando si incapolano deve stare ma molto attento. Quelli lì li usavano in cose per catturare gli orsi, ti puoi immaginare, non mi ricordo in quale paese, sono pericolosissime, insomma. Lo so. Sono cani molto pericolosi. Aspetta che sia Antonello, che poco fa gli ha dato un colpo di mattarello in testa alla moglie, voglio vedere se è rientrato. Antonello, barracuda. Che te la fare? Si è vantato che lavava i piatti, ragazzi, si è inteso il sicilio. Si vede che la moglie ha preso il mattarello e gli ha lanciato da lontano tu. Pure io già li lavo quando tocca. Troppo qua. Bisogna darsi da fare, dare una mano, perché qua la situazione non è che sia al meglio, dopodiché tocca rimboccarsi le maniche, io già più o meno già so fare tutto, so mettere anche la lavatrice alla fare, tutto, raccolgo, attendo. Ok, beh certo, no, è già bello dare una mano, non ci mancherebbe altro, perché no, in famiglia bisogna collaborare, non è che uno può pretendere di essere servito la bacchetta così, no, no, devi anche impegnarti tu, dare una mano, collaborare, insomma, ecco. Aspetta, che sto sentendo, uno è quasi quasi tesa la modula, adesso non ho capito se è di splatter, ma non credo, o dire propagazione, forse propagazione. Aspetta un attimino, lascia un attimino il bianco, voglio ascoltare. No, adesso non sento niente, vabbè, dai, riprendi tu. Ma chi è che sovramodula? Ho attaccato l'apparecchio. Vabbè, ma no, si intromette quando parli tu. Si intromette quando parli tu, ho capito. Si sovrappone, insomma, in poche parole. Adesso non ho capito se in FM, se in base alla terra, no, in base alla terra no, in FM o se nel canale a fianco, ma non lo so, vabbè, non fa niente, dai, riprendi, fregate. Sperando che non mi dia molto fastidio. Senti, Giulio. Sì, avanti. L'importante è che non mi dia tanto fastidio. No, diciamo che si sovrapponeva alla tua modulazione. Comunque, adesso è anche aumentato e dunque adesso non ti può dare fastidio, assolutamente. Ma se no uso l'altro apparecchio che è più potente, sto usando l'omologato perché per non hai capito? Sì, no, no, adesso non te dovrebbe dare fastidio, dai, va bene così, no, non è un problema tu. Però non so, era qualcuno che si sovrapponeva quando parlavi tu, cioè come quando uno fa apposta via a disturbare, capito? Ultimamente vedo che questi piccini picciò rompendo le palle. Vabbè, lo fa ancora, uso l'altro apparecchio che è più basso sicuramente e non dovrebbe più farlo. No, ce n'è bisogno, no, non ce n'è bisogno perché sembra che fino a questo momento riesci a passarlo, no, non è un problema. Però diciamo che lo sento, però non capisco cosa dice, è tutta una modulazione, tutta confusa quello che dice, infatti stavo ascoltando attentamente, ma è tutta una modulazione confusa, come quando ti hanno spiegato l'idea, non nemmeno l'FM, no. Come quando ti arriva una modulazione dal canale a fianco, no? Ma non l'ho provato, ma non c'è nessuno nel canale a fianco, né sul 9 né sull'11, non c'è nessuno, dunque no, probabilmente qualcuno che era fuori, boh, non lo so. Scappa, io sto usando parecchio omologato, sto usando, credo che sia sufficientissimo per qua. Tanto ho detto, no, non è che ci sia nessuno da lontano e cosa, allora uso quello via, per farla in città fatta. Anch'io sto usando il Galaxy 2, sto usando con microfono normale, sto usando, e dunque avevo sistemato un vignaretto che un anno fa me l'aveva bruciato un fulmine, me l'aveva bruciato, due cose me l'aveva bruciato questo ordinaretto 747 e poi mi aveva bruciato anche un riduttore di potenza, mi aveva bruciato, e da allora l'avevo messo da parte dove non mi ero più interessato. Tempo fa, quando sarà due settimane fa mi sembra, all'incirca, ho cambiato i finali e sono riuscito ad aggiustarlo, però quando lo accendo salto la statua del radio, infatti guarda, se l'accendo, se mettessi la radio è saltola, adesso te lo stacco di nuovo, ecco adesso l'ho staccato, la radio è saltola, capito? E dunque non lo uso perché mi saltola la radio e non me la frega niente, tanto è una cosa che non serve tutto sommato. Quanto c'ha quello apparecchio, quanto c'ha? Ah, dovrebbe essere intorno ai 10 watt, dovrebbe essere, perché se satura è perché ha sicuramente troppi watt in entrata, capito? E allora è per quello che satura, se no non dovrebbe saturare. Sicuramente più di 10 watt, supporta 10 watt, supporta. Dovete provare con un apparecchio da 5 watt normale. Provarlo e dare un po' di modulazione, sono convinto che non satura. Sì, è probabile, vabbè, ma Adesso ieri sera mi ho tolto tutto, me ne sono tenuto solo uno qua nel tavolino, tutti gli altri me li ho tolti, perché intanto devo stare sempre attaccando, staccando l'antenna, non me ne frega niente. Intanto mi va bene così, no, non è un problema. Lo uso senza lineare, non è necessario, non li uso mai praticamente. Però visto che ce l'avevo e visto che sono riuscito a trovare i finali nuovi, i finali adatti, no, perché non è facile mi trovare i finali delle 747, ma glieli ho messi adattati e vanno bene, non funzionano, insomma, in poche parole. Però ripeto, il fatto che mi salto la lavorazione non mi va bene, no. Questo sì, mi capiscono lo stesso, però no. Dimmi a che grado di saturazione è, tu non mi hai attaccato, guarda, a che grado di saturazione è, 1, 2, 3 tromba, mentre invece adesso, ecco, in questo momento l'ho staccato di nuovo, a che grado di saturazione è, o altro? Come altro il grado di saturazione? Sicché vedi bene, non ne vale la pena usarlo, no, ti rovina la radio e basta, ti rovina. Anche se aumenta il segnale non me ne frega niente. Ma ecco, per curiosità, il segnale così come adesso, a tu, guardalo bene, se puoi, se hai lo smittere analogico, oppure così, adesso che attaccato di nuovo. Dimmi solo il segnale, a parte il discorso radio, vai a tu. Giulio, se mi dai 2 secondi attacco la tua radio, te lo do. Ecco, d'accordo, voglio almeno capire se effettivamente funziona bene o se mi rovina solo la radio, solo quello volevo. Te ne do anche di più di 2 secondi, anche 10, anche 30, anche 2 minuti e 3 minuti, altro non ci sono problemi. Dalla radio, no? Che guarda attentamente lo smitter, adesso lo accendo, ecco, in questo momento lo accendo, guarda, 1, 2, 3 prova, vai, ritorno normale, ecco, di nuovo normale, così, ecco, a tu, avrai verificato, vai a tu. Già pompa, già, da parte, da 920 a 925, di più di 925 qua. Quindi amplificato. Ecco, allora vuol dire che è amplificato. Peccato, adesso è che mi rovina la radio. Pazienza, va bene. Vuol dire andremo a piedi a tu. Andremo a piedi, non ce n'è bisogno allora. va bene, fregate. Va bene lo stesso. Ma questo è molto più spinta, vero? Sì, questo ha più spinta, ma sia di radio che di segnale, Andrew. Questo è più forte, Quanto è di segnale questa? Questo è 9 più 5, in questo smitter che tieni presente che questo smitter è un pochino a vano, sì, che se questo è 9,5, su questo, sugli altri, che adesso non te lo posso dare perché non ce li ho qua davanti, sicuramente è almeno 9,7, 9,8 e forse anche 9,10, perché questo qui è leggermente inferiore agli altri barattini, capito? Come il smitter. Invece quello là intorno ai 9 era così. Sì, l'altro era 9, è appena scarso però, 9, diciamo 9, 8 e 8, una cosa così, dai, capito? Questo invece supera abbondantemente il 9. E poi 9,10. Diciamo, attaccato quello lì perché ho detto, vai, è sufficiente, ho detto, cosa so attaccare altro. Invece poi non trovo. Tanto c'è gli tutti e due qui, c'è ciò. Esatto, con anche l'altro. C'è di quelle bananette che sono sovrapposte, capito? Se ci staccano le bananette all'alimentatore, poi ci attaccano gli altri sopra. Lo so staccarti da fare in cielo. Ah sì, ce l'ho anch'io col tipo di bananette, sì, che si attaccano le bananette sulle bananette stesso, sì, ho capito, ce l'ho anch'io quel tipo di, non in questo momento, guardate, ma ce li ho conservate, no, dentro la scatola dove tengo tutte materiali elettrici ed elettronici anche. Sì, sì, no, ieri, siccome ieri sera, no, a un certo momento ho preso, beh, adesso mi smonto, mi sistemo un po' il tavolino, sai, ogni tanto qui io prendo il monto per sfoderare anche sul tavolino, perché non voglio che mi tocchi mai niente nessuno, no? Sì, che è un compito che assolvo io questo qua. Me li smonto, me li stacco, me li pulisco uno a uno, pulisco i piani all'interno del tavolino, eccetera, eccetera. Questo, così almeno gli altri me li ho conservati, gli altri li ho messi dentro una scatola, li ho messi una scatoletta, sarà 60 centimetri per 60, una scatola che ho procurato proprio ieri, è alta, sarà un 20 centimetri, ho preso e li ho messi tutti dentro. Però nel tavolino io ne avevo 6 di apparecchi, avevo Tokai, Lafayette, Midland, l'Intech 34S, l'Alan 78 Plus, poi avevo anche Cobra, avevo, insomma, l'ho preso, ho tolto tutto, ma dobbiamo anni che ho tutto. Poi magari mi ritorna in mente e mi rimetto mi anto perché sono fatto così, ma cosa ci puoi fare? Almeno passo un quarto d'ora, 20 minuti mentre faccio questi lavoretti. Più corposa e più amplificata, insomma, ecco. Qual è il microfono che stai usando? Il 920, come si chiama? E lui è l'apparecchio stesso che mi dà nell'eco. L'Intech 550, l'ho sentito, sveniamo. Ho detto, non è il microfono, cioè il microfono sì, però il microfono è originale dell'apparecchio. È lui che dà l'eco, non è il microfono che dà l'eco. Ah, ho capito, è incorporato, sì sì, no, è bello, una bella radio, forte, forte, soprattutto forte, no, va bene, va. E 550, sì, già lo conosco, l'altro giorno stavo guardando anche al computer, ho guardato, adesso non mi ricordo il sito che ho guardato, ma ne sono venuti fuori 3.000 di questi tipi di baracchini, me li ho guardati tutti quanti a uno a uno, alla fine ragazzi da quando mi sono alzato dalla sedia ero anche stanco di stare seduto, perché ero un sacco di tempo sempre guardando, ma ho guardato dai baracchini più vecchi, più antichi, a quelli più moderni, tutti quanti, un sito che poi tra l'altro me l'ho messo nel segnalibri, così almeno non me lo posso dimenticare, quando lo voglio, lo guardo, capito, perché ce l'ho praticamente, me lo sono memorizzato nel computer, capito? Guarda, adesso ho schiacciato il pulsante del VIP, ho schiacciato, perché c'è tutto incorporato, canali, è tutto uno, no? L'ho messo di M1000, ma cosa lo metti a fare? No, non serve proprio, perché fischia anche, perché lui va già bene così, non c'è bisogno di niente. Infatti, no, non ce n'è bisogno, sembra, è amplificata, come radio amplificata, o perlomeno è bella compressa nel senso che è spinta, capito? No, va benissimo, no, non c'è bisogno di mettere il microfono amplificato, assolutamente, no, va benissimo così, è già una buona, è la tecnica moderna, capito? Oggi col passare degli anni si fanno apparecchiature sempre più sofisticate, sempre più complete, magari come struttura meno valida e anche come circuito probabilmente meno resistente, però come qualità è sicuramente superiore a quella di prima, a parte il discorso robustezza in tutti i sensi, ma come qualità è chiaro, oggi la tecnica è molto ma molto avanti. Ogni giorno, no, è un piccolino, già sono buone queste radio, vanno bene, ogni giorno, magari anche le calze, perché molti prima no, prendevano una radio, no, non ci tendia nota, e allora per evitare lì adattare il microfono e cose. Anche le case che costruisco, tipo la Intech, altri apparecchi buoni e validi, si sono fatti furbi e hanno usato, cioè dice, perché non mettiamo una cosa che funzioni bene, almeno non hanno bisogno di stare ad andare a comprare altre cose. Molti di questi apparati della Intel, che se tu hai visto, c'è il compressore, c'è il compander, tipo l'H520, il portatile, così che abbiamo preso noi, c'è il compander, è il compressore di modulazione, lo attivi ed esce come una radio, cioè tipo HF, cioè vanno bene, non c'è bisogno di farli chissà che cosa. Così sono tutte le cose, soprattutto la Intel, che sta adottando questi due generi del compressore di modulazione. Tu vai, schiacci, c'hanno in entrata che in uscita e funzionano benissimo, non c'è bisogno di niente. Ok, sì, ma certo, tanto sì, ma è così, in effetti è così, in effetti è così. Aspetta un attimino, tanto che apro il cassetto del comodo e prendo il microfono, quello in legno autocostruito e metto quello, o così, e ti faccio sentire il microfono in legno che io ho fatto, e ne ho fatto tanti, ma questo l'ho fatto quando è un paio d'anni fa, e me lo sono tenuto e non lo do a nessuno. Stavo dicendo, a differenza degli altri che prima ne facevo, li davo un po' uno, un po' l'altro, ma io sto parlando degli anni 70, 80, anche negli anni 70 e 80, li facevo e poi li davo, e sono stato anche cretino che li davo. Vabbè, a ogni modo, aspetta un attimino, tu mi cambio il microfono, apro il cassetto del comune e trovo fuori il microfono di legno e te lo faccio sentire. Ciao. Antonio? Sì. Ecco a tu, adesso, 1, 2, 3, prova, com'è? Benissimo, si sente molto bene. Questo qui è fatto in legno, no? Tu immaginati il Turner più 3 da tavolo, oppure l'MB più 5 o più 4, la forma è quella, no? E dentro c'è l'auto, il circuitino autocostruito, e poi l'ho fatto con l'orciliegio, questo microfono, l'ho fatto e ciccia, con il tasto grosso modo come quello del Turner più 3, lo stesso, tutto in legno, tutto, e va bene, dai. Questi li facevo io negli anni 70 e anche negli anni 80, li facevo e poi li abbinavo, soprattutto andava molto ma molto bene questo sull'HB23, era straordinario, aveva una modulazione che era fortissima, ma forte, forte, forte, un vecchio baracchino di allora, l'HB23 si chiamava, ma si abbinava molto ma molto bene, molto ma molto bene. Va bene, riprenda tu. Capo, ma va benissimo, va Giulio. Va veramente bene. Capo. Adesso meno male che sto utilizzando anche oggigiorno la tecnologia MOSFET. In tutti gli apparecchi, anche nell'esterno. Questo per esempio c'ha i Mitsubishi, MOSFET. Ho capito, Anto, sì. Sì, oggi i finali MOSFET stanno andando alla grande, stanno andando, ma li stanno mettendo un po' dappertutto, negli apparati li stanno mettendo, nei lineari, un po' dappertutto, ormai diciamo che sono all'avanguardia quel genere di finali lì, Ma anche negli stereo, delle macchine, qualunque cosa. Purtroppo la gente dovete cercare, andiamo a scatole, c'hanno anche, vanno anche in protezione, se sbagli la polarità, molti apparecchi vanno in protezione, non si bruciano. Sì, è vero, io infatti ho il coso, come si chiama, l'alimentatore da 25 ampere, il switching, che quello lì va in protezione, se tu sbagli si spegne e poi dopo un po', aspetti un po'. pochino, stacchi la spina e dopo un po', ma dopo un minuto, due minuti nemmeno, la riattacchi e si riprende, tutto va così. No, infatti anche l'autoradio che ho in macchina, della macchina, che è un Pioneer, e anche quello ha quattro finali a MOSFET che mi dà una potenza di, che ho sì, altoparlanti, io nella macchina da 50 watt di potenza. E poi la radio ha anche l'ingresso Hauser, e infatti mi metto il telefono, il telefonino, e io ho senza bisogno di prendere il telefono in mano, niente, e parlo direttamente, anche dentro il cruscotto il telefono, parlo direttamente dalla macchina, così, senza, diciamo, tralasciare l'attenzione alla guida e niente, capito? Praticamente al frontalino naturalmente che si stacca, infatti io lo stacco sempre, lo uso poco, però quando lo uso me lo stacco sempre, non lascio mai il frontalino, capito? Anto? Sì, no, ma ho fatto fare benissimo a fare. Addirittura quello rosso manco ce ne metti di capo, è direttamente così, wireless, come si dice. Cioè direttamente così, Bluetooth. No, tu rispondi alla domanda, devi forzarglielo lui fa. Ho capito, sì, il mio è un Pioneer dell'autoradio, e dunque avevo pagato 400 euro due anni, dunque aspetta, esattamente 30 mesi fa, praticamente, due anni e mezzo fa, quando ho comprato la macchina me l'avevano installato loro direttamente, me l'avevano installato e avevo scelto quello, ripeto, è una grande comodità, perché io quando faccio un viaggio lungo per dire fuori eccetera, attacco il telefonino, lo metto così, poi da casa se ho qualche amico che mi chiama io posso rispondere tranquillamente senza prendere il telefono in mano, niente, non ce n'è bisogno, capito? Perché parlo direttamente come le grandi macchine, la mia non è una grande macchina, è semplicemente una C3, però per dire no, ha quella funzione lì. Capito? Scappa. Io invece sono molto amante dei suoni. Lo senti questo tu? Ho sentito. Già ho sentito già. Non so, forse da all'estero. Poi per me invece piacciono molto le suoni come autoradio, le chiedo. Sì, anche, Sony è una bellissima marca, no, non ci sono dubbi, Sony fa delle apparecchiature straordinarie, io ho anche il televisore qui, il televisore del salone che è grande, quello piatto, no, di quello a LCD, ed è proprio Sony, ma è straordinario, ha un'immagine perfetta, proprio bella, solo che ho preso la fregatura perché io ce l'ho già, mi sembra, 2 o 3 anni anche quello, e adesso costa molto meno, ma io l'ho preso quando era appena uscito, diciamo che c'era già un po' di tempo, però l'ho preso già 2 o 3 anni fa, ma adesso costa molto di meno, ma perché? Perché adesso ce ne sono di altri tipi, è chiaro, no? Si sa, quelli di prima poi abbassano i prezzi e magari i prezzi lievitano molto nelle apparecchiature moderne, più moderne, insomma, ecco. Io guarda, dico una cosa, io il Pioneer l'ho sentito il suono del tempo, secondo me sono i migliori, un tipo di suono, poi niente, cioè, dipende sempre cosa gli piace a uno, però io li ho sentiti attentamente. Per me sono molto, soprattutto io sono su fissi con queste cose, per me sono molto superiori. Ma non te lo so dire questo, Antonio, io so solo che quello che io devo dire che è un'ottima applicazione, è buona. Del resto la musica bisogna ascoltarla anche a un certo volume, no? È chiaro che quando sono in macchina non è che mi metto con la macchina a volume alto, ci mancherebbe altro, come fanno certi ragazzi, eccetera. Però se la vuoi proprio apprezzare la musica devi anche aumentare un po' il volume, cosa cosa che io non faccio mai praticamente. E ti stavo dicendo, poi ha anche la mia autoradio, ha anche la penna USB, dunque io ad esempio, tanto per fare un esempio, ho una penna che ci sono 1200 canzoni sassarini, tipo, praticamente quasi tutti, all'infuori degli ultimi che sono uscite, le canzoni, delle ultime canzoni che sono uscite, poi le altre ce le ho tutte. Metto la penna per dire e posso fare Sassari, Cagliari e ritorno anche sempre ascoltando la musica sassarese, per dire, no? Capito? E poi naturalmente se metto un'altra penna posso avere qualsiasi genere di musica, qualsiasi altra cosa, non è un problema. Vabbè, tu parli in quel genere lì, io ascolto tutt'altra musica. Sì, ascolto, mi piace le canzoni sassarese, la verità. Però mi piace altra musica, io preferisco tutta l'altra musica ascolto. E che qua a casa sono in piazza della Borsa, pure se qualcuno ha detto che vabbè, lasciamo perdere. Però le piazze della Borsa sono eccezionali, sono come tipo di energia di suono, per me sono molto buone, insomma. Ce ne sono tante, ce ne sono apparecchiature buone, perché no? Certo, solo che uno se vuole una cosa buona devi spendere, non puoi accontentarti di una cosa da 100 euro, devi spendere e basta. No, io sinceramente quando sono in macchina che faccio un viaggio un po' lunghetto, di solito ascolto sempre le stazioni, o ascolto Radio del Golfo, oppure ascolto l'Ateniere, oppure Radio Italia anni 60, cioè Radio Italia solo musica italiana, capito? Perché a me piace la musica italiana, l'altra, la musica straniera, quella americana o inglese non mi piace, non me ne frega niente di quella. A me piace sentire e capire le parole che canta un cantante, capito? Mi piace così. Di solito io ascolto sempre quelle radio lì, eppure attualmente anche Rai 1, in modo che possa sentire i notiziari eccetera eccetera, questo sì. Ma per dire, raramente metto la penna, non me ne frega niente, anche perché tra le canzoni sassarese ce ne sono belle, ma c'è anche tanta mondezza pure, non è? Anzi, diciamo che più la mondezza che la cosa bella che si può ascoltare veramente. Antu. Anche quelli io, adesso tutti a tu, non è un problema. Tu lo sai, c'è mio fratello che canta in sassarese, anche fa anche musica leggera, non è? Perciò io quando li voglio li procuro sempre, non è un problema. Ma questo ce l'ho, ho il CD anche, no? Cioè il CD, il DVD, ho il DVD che appunto, infatti quello sulla penna l'avevo scaricato, poi me l'avevo fatto scaricare, no? Perché io non è che lo so fare, non so usare il computer, più di tanto non lo so fare, me lo sono fatto scaricare da mia figlia, non è che, capito, dal DVD col computer me lo sono fatto scaricare dalla penna, tutto via tu, ma non la uso quasi mai, sinceramente non la uso quasi mai, la verità, preferisco ascoltare sempre Radio del Golfo, dici quello lì è la radio che più ascolto, la radio di Porto Torres, oppure la Temiere, oppure appunto 106, 106 MHz, radio della musica italiana, capito? Andando a quel programma che fa Marcogallo, tutto esaurito, e poi qualche volta la sera sotto lo so, mi faccio madroneggiare. Beh, lo so, sì. L'ho ascoltato per un certo periodo, ma un paio d'anni fa, Radio 105, ma poi alla fine non mi piaceva perché la mattina facevo la trasmissione, tutta piena di baracci, non so se l'hai mai seguita quel tipo di trasmissione, e allora ho cambiato stazione, vabbè. Vediamo un po', avanti 9 più 15, avanti chi era? 9 più 15. E c'era stata una portante 9 più 15, avanti 9 più 15 chi era? E vabbè, si vede che non è a Puglia. Va bene, a tu. Dai, adesso scendo giù, dai. Così vado a comprare le pasta, perché di solito noi la domenica e il sabato compriamo sempre le pasta, qui c'è Vanali, la pasticceria che è a nemmeno 50 metri, 30 metri da casa sarà, 30 metri da dove abito io, è una pasticceria che fa le paste abbastanza buone, vado a comprarle, perché se vado troppo tardi poi non le trovo più, perché dopo pranzo poi una o due paste ce le mangiamo, dopo il pranzo e anche per la sera poi una merendina eccetera eccetera. Grazie a tu per il QSO, ci sentiamo stasera eventualmente, ok? Ciao, ciao a tutti, salutoni, a risentirci a presto, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. E ciao anche al 9 più 15 di nuovo, ciao. Sì, che l'ascolto, ciao Sandro, avanti. La modulazione è tranquillissima, bella, bella. Il segnale è 7 e la modulazione è ottima. È forte, forte, forte, bella. Ti sento benissimo. Ma qua è ora. Ok, ciao, come sta? C'è Antonio eventualmente, che forse non so se vuole rimanere in frequenza, se tu vuoi rimanere, vuoi continuare. Io scendo perché se no poi devo andare in pasticceria, se no poi alla fine trovo lo scarto, capito, Alessà. Ci sentiamo eventualmente stasera. Ciao Alessandro, ciao Antonio, io passo in QRT, ciao ciao a tutti e due, ciao.